fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. È tempo che ve l'ho annunciato, questa trasmissione si sta trasformando, anzi si trasformerà tra breve, in un mutatore di carne umana e letteratura. Tra non molto tempo, quindi tra poche ore, noi domani saremo alla Fiera del Libro a Torino, dove inizieremo a raccontare le vostre storie, storie individuali, storie di carne banale, di carne contemporanea, di squallido quotidiano, saranno trasformate in mirabolanti opere letterarie. Ma per fare questo oggi propongo un passo intermedio. Come già vi avevo annunciato, come già sanno gli amici su Facebook, oggi toccheremo un tema molto delicato, molto attuale, anche molto nascosto. La mirabolante riprogettazione del corpo umano e soprattutto del corpo femminile. Mi chiamo Sean McNamara e sono un chirurgo plastico. Qualcuno di voi ha già fatto un intervento ricostruttivo? Oh, sì! Bene, signora, che intervento? All'anca mi hanno messo una protesi. Ah, capisco. Beh, è una cosa un po' diversa. La sostituzione dell'anca la fanno gli ortopedici. Vediamola in un'altra maniera. Vi capita mai di guardarvi pensando tutte queste rughe attorno agli occhi mi hanno scocciato? Oppure, se potessi eliminare le maniglie dell'amore sui fianchi, sembrerei tanto più giovane? Bene, se vi capita, la chirurgia plastica è quello che fa per voi. Ma non è cara. La blefaroplastica di mia figlia è costata $5,000. Alcune operazioni sono un po' più costose di altre, questo è vero, ma allo studio McNamara e Troy prevediamo forme di pagamento adatte allo stile di vita dei pazienti. E inoltre, adesso abbiamo un'offerta speciale fino alla fine dell'anno. Se vi rivolgete a noi per un intervento, il secondo vi costa la metà. Materiale di repertorio, personalmente nip and tuck, sono i due cinici, anzi uno più cinico dell'altro, l'altro è un bonaccione, ma in fondo sai, fanno combutta tra loro, chirurghi plastici che propongono delle offerte a prezzi stracciati per vecchie decadenti. Sembra normale, quando la carne umana mostra segni di disfacimento, chiunque vorrebbe comunque porre dei limiti a questa opera della natura. Ma esiste un passo successivo, un passo ulteriore che ha molto a che fare con lo spirito sottotraccia del tempo che stiamo vivendo. Il corpo umano non è più un'entità assoluta, un'entità indissolubile, un'entità inattaccabile. Il corpo umano, come qualsiasi altro oggetto inanimato che non appartiene alla nostra esperienza personale, può essere riprogettato. Sulla riprogettazione del corpo umano, il termine sembrerà brutale, sembrerà duro, ma pensate che in effetti qualunque uomo e qualunque donna si guarda allo specchio e pensa di non essere adeguato a un modello estetico a cui vorrebbe comunque assomigliare, a cui vorrebbe appartenere, in qualche maniera inizia un'operazione di riprogettazione. È come la ristrutturazione del vostro appartamento, è come la seconda casa che affidate all'architetto se avete disponibilità, ma se non avete disponibilità l'affidate al geometra. E quanti geometri del rifacimento corporeo oggi hanno la responsabilità di modelli estetici che vediamo passare e che non sembrano rispondere propriamente alle nostre atteso al nostro concetto di bellezza. Le concorrenti di questo concorso di bellezza stanno per contendersi il titolo di bellezze senza età. Sono tutte ben vestite, tutte ben truccate e allegre come bambine. I parrucchieri, i truccatori e i sarti ce l'hanno messa tutta. Nonostante tutti gli accorgimenti, però, se c'è qualcosa che non va, purtroppo si vede. Stavo finendo di sistemarmi il vestito. Per la pancetta un pochetto. Per un pochettino la pancetta. E lei che si è rifatta? Mi ha, diciamo, alzato il canto esterno dell'occhio. Perché uno si rifà? Che poi dopo tanto si vede. Perché lei lo vede che io l'ho fatto. Certo. La chirurgia plastica oggi non desta più scandalo, non è più un'operazione relegata a uno star system, a coloro che hanno bisogno di attrezzare il loro corpo in maniera particolare, perché è il loro strumento professionale, strumento di lavoro. Se c'è i divi, le dive necessariamente devono rifarsi, devono ritoccarsi, devono curare in maniera particolare il loro aspetto fisico, perché? Perché la loro immagine è tutto per loro. Lentamente questa tendenza andrà tracimando verso anche le persone comuni. Il rifarsi è diventato un sussidio al proprio benessere interiore, alla propria compattezza psicologica, alla propria attesa relazionale. tutti si rifanno, ci si rifà in maniera assolutamente tranquilla. Chi non ha denaro e disponibilità per rifarsi accende dei mutui, va in paesi svantaggiati dove costa molto meno, esista l'hard discount del rifacimento corporeo. È una realtà ormai perfettamente sedimentata, non fa più scandalo. Ma il punto su cui vorrei convocarvi questa mattina, vi consiglierei di cominciare a chiamare all'800 24 00 24, è esattamente un altro. È il rifacimento fisico, è l'adeguamento corporeo, è la riprogettazione della propria carne da parte di persone che in realtà ancora non hanno, non stanno attraversando quella fase di decadimento tipica in cui uno si guarda allo specchio e dice ma forse deve fare qualcosa. Persone che già nascono belle, già hanno il dono della giovinezza, il dono della carne compatta, della carne soda, delle forme piacenti, che già hanno quasi nel loro DNA la necessità, come se fosse un meccanismo, un'orologeria, di rimettere le mani su ciò che la natura ha messo addosso alla loro coscienza. Domitilla M, 19 anni, liceo linguistico Roma, protesi ai glutei e lipofilling, 7.000 euro. E poi vedi, queste protesi hanno una forma particolare, dice il dottore rigirandosi la mia protesi tra le mani ed evidenziando con gesti dolci le curve del silicone. La protesi me la sento già sotto la pelle, tra i muscoli, come ha detto il dottor Filettini, in modo che non vada a premere sul nervo sciatico. Così sembrerà più naturale, sentirò meno dolore. Il dolore non mi spaventa per niente. La accarezzo ancora un po'. Tra poco potrà sentirla direttamente sul mio corpo, una mezzaluna solida e decisa, che dà volume al mio culo piatto. In termini tecnici, il mio problema si chiama ipotrofia, tradotto glutei poco proiettati. Tradotto ancora meglio, culo piatto, secco, senza forma, antiestetico, antifemminile, antisesso, in poche parole. Anche il mio Paolo potrà accarezzarla, ma non gli dirò nulla, non gli dirò che c'è, che esiste, come me, in me. Grazie a lei, io comincerò a esistere, anche ai suoi occhi. A fare questi pensieri non è una signora âgée, non è una donna ormai segnata dal tempo, dalla stanchezza, dalle intemperie sulla propria carne, ma è una ragazzina. Una delle tante ragazzine che non sogna altro di avere la maggiore età per potersi sottoporre all'intervento di ristrutturazione del proprio fisico. Hanno già in mente un progetto preciso, un progetto che non affonda le radici in una tradizione di fattezze corporee. La nostra forma fisica è composta da varie circostanze, dal nostro patrimonio genetico, occhi, labbra, bocca, gambe, dimensioni, proporzioni, e ce le regalano i nostri genitori per primi, ma tutta la catena di esseri umani che hanno contribuito alla creazione della nostra catena del DNA. Poi ci sono alcune circostanze ambientali che incidono. Noi abbiamo addosso i segni anche della terra in cui viviamo, dell'epoca in cui viviamo. Anche in Italia alcune fattezze fisiche, perlomeno fino a qualche decennio fa, rispondevano a delle collocazioni geografiche. E poi naturalmente c'è l'alimentazione, c'è l'esercizio fisico, c'è l'uso che facciamo del nostro corpo. Ma queste ragazzine, non ancora maggiorenni, hanno già in mente un modello ben preciso, che è un modello che probabilmente non risponde a nessuna di queste caratteristiche. È un modello pensato, studiato a tavolino, sono aure, proporzioni corporee che corrispondono a qualcosa che loro vedono, hanno ben preciso in mente, a cui vogliono sicuramente adeguarsi. Beh, questa interessante ricerca sul campo, è un numero abbastanza consistente di ragazzine in procinto di rifarsi, appena rifatte o in fase di rifacimento, lo ha fatto un'amica, una collega, che è Cristina Silvieri Tagliabue. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Ha scritto un libro appena fresco di stampa, appena ho 18 anni mi rifaccio, storie di figli, genitori e plastiche, editore Bompiani. Cristina, tu hai messo in luce un segmento di umanità che conoscevamo, di cui avevamo sentito parlare, ma nessuno prima di te era sceso sul campo, ci aveva perso tempo. Ecco, come hai cominciato a conoscere, analizzare, studiare le ragazzine desiderose di rifarsi? Sì, il passaggio è stato da una farmacia in cui ho sentito una ragazzina chiedere dei prodotti anoressizzanti senza ricetta medica. Di lì mi è venuto l'interesse, perché ovviamente ci sono un sacco di signore che noi conosciamo bene, con le labbra rifatte eccetera, che non appartengono al mondo dello spettacolo ma appartengono proprio al nostro mondo, a quello delle persone che lavorano, hanno delle professioni normali e che semplicemente dicono essere belli nelle professioni anche normali, non solo nel mondo dei media, dello spettacolo, funziona. Io faccio carriera con questa cosa, con questo colpo. Le ragazzine mi hanno scioccato, quindi ne ho parlato con Elisabetta Sgarpi alla Buonpiani e mi ha detto, beh, insomma, qui merita veramente una ricerca, merita di approfondire. Allora ho iniziato a telefonare all'impazzata a amici dei miei genitori, chiedendo dei loro figli, ad amiche, in Italia prima e poi anche all'estero in realtà, perché sono andata in Giappone, sono stata a Parigi e anche in Inghilterra a cercare storie. E ho iniziato a infilarmi in queste famiglie in cui madri reticenti e padri un po' timorosi hanno accettato che io parlassi con le ragazze, anche un paio di ragazzi in realtà. Loro naturalmente complici e consapevoli del fatto che regalare un paio di tette o delle natiche più gonfie, come diceva la storia tratta dall'altro libro che abbiamo letto adesso, non faccia parte poi degli usuali regali che si fanno in famiglia. Sì, sono in realtà gli usuali regali ormai, perché davvero è molto molto diffusa questa cosa. A 16 anni c'è il motorino e poi le ragazze sono molto consapevoli anche dei costi ormai di queste operazioni, perché su internet ci sono bravissimi chirurghi che si fanno un sacco di pubblicità e lasciano anche il loro numero di cellulare a cui rispondono direttamente, per cui è davvero un attimo. Quindi la ragazzina contatta inizialmente il chirurgo direttamente e comincia a informarsi. Sì, esatto, e ci sono questi forum all'interno dei quali, come dire, ci sono chirurghi che offrono gratuitamente ovviamente la loro consulenza, oppure appunto si può andare da un medico direttamente in studio e informarsi e chiedere. E il chirurgo, un po' come dicevi tu, geometri del rifacimento corporeo, direi anche quasi stilisti, ovviamente il chirurgo che è iper informato sulle novità no, del mercato e del mondo della farmacia, della medicina, in realtà ti racconta quali sono le fantastiche novità. 800240024. Avete nella vostra esperienza personale, familiare, nel circolo delle vostre amicizie, esperienze simili? Vi sembra così paradossale che una ragazzina cominci a interessarsi ancora prima di un abito particolare, un paio di scarpe particolari, o al contempo di questi desideri leciti di adolescenziale vanità, anche di un radicale trasformamento, no? Di radicale trasformazione della propria carne? 800240024. Rabbrividisco mentre il dottore mi sfiora con la punta delle sue lunghe dita i fianchi e le cosce. Facciamo un'azione che in gergo chiamiamo lipofilling, insomma, ti rimodelliamo tutta, vedrai che figurone. Ci stringiamo la mano. Arretro verso la porta, voltandomi solo all'ultimo momento, come sono abituata a fare quando mi allontano e so che qualcuno mi sta guardando, per impedire che l'ultimo ricordo che ha di me sia al fondo schiena. Ma tra poco potrò smetterla con certi giochetti. Cristina Silvieri Tagliabue, autrice del libro Appena 18 anni, mi rifaccio, storie di figlie, genitori e plastiche. Cominciamo dalle, diciamo, statistiche di rifacimento. Qual è la prima cosa che viene in mente di rifarsi a parte di queste ragazzine? Beh, la cosa più banale è ovviamente il seno. Domani mattina sul magazine del Corriere della Sera c'era un'anticipazione sulla storia, vediamo, più semplice, ma anche in realtà più popolare, cioè le ragazzine in effetti chiedono questo seno, l'abbiamo visto ovunque in televisione, ma non soltanto, nel mondo di Hollywood, soprattutto nel mondo dello star system, quanto ormai questa parte del corpo sia... Ti ricordi la quasi vincitrice, l'ultimo grande fratello, Cristina, la tettona ottava di misura, i cui compagni di prigionia sapevano esattamente quanto ci fosse di polimero artificiale all'interno di quelle mammelle, le soppesavano, ne parlavano dei pericoli di esplosione una volta che gli dissero, gli fecero uno scherzo. Ciononostante ne erano affascinati. Ne erano attizzati, quindi significa che ormai il silicone attizza quanto la carne. È incredibile, in realtà i movimenti anche oggi non sono molto naturali di un seno al silicone, nonostante le nuovissime tecnologie che ho visto in tanti incontri con i chirurghi, eppure niente, questo seno artificiale, come dire, ha un che di bello, di estetico, è scientificamente costruito. Quindi le ragazzine cominciano a crescere delle misure di seno, comunque sia, ne abbiano bisogno. Poi andando avanti, Beh, dunque, nell'introduzione del libro, esce il 20 maggio peraltro, non è ancora in libreria, questa è una sorta di anticipazione, racconto che le ragazzine hanno un modello, io lo chiamo Barbie, ma in realtà non è questo, è un modello hollywoodiano banalmente, e poi fatto di ovviamente seni grossi, fianchi stretti, gli zigomi alti, per cui anche, come dire, il volto ha una certa importanza, ci sono un sacco di volti che io conosco di amiche, il mio volto stesso, come dire, non è da Barbie, e volti di provincia, volti di persone con le ossa grosse, quelli non vanno bene, bisogna avere gli zigomi alti, bisogna avere poca carne intorno alle labbra e comunque delle labbra molto grosse e molto profonde, bisogna avere un naso che non è più quello rifatto che si vedeva tutti che l'avevano rifatto all'insù negli anni 90, però comunque bisogna avere un naso sottile, bisogna avere un occhio sempre molto aperto, spalancato, vivace, no? Come se tu non fossi abbastanza sveglio, se per caso un pochino la palpebra ti cade. Ci sono casi noti in cui l'operazione riesce a metà, ci sono noti personaggi televisivi che hanno un occhio aperto, uno chiuso, per quanto riescano, cerchino di confonderlo. Stefano, buongiorno. Buongiorno. In Colombia la chirurgia plastica viene regalata alle quindicenni. Sì, diciamo che sentendo la sua introduzione di prima mi è venuto in mente questa cosa che mi hanno raccontato lo scorso anno. Io sono mezzo italiano e mezzo colombiano, per cui insomma vado spesso, o comunque più spesso di chi non ci vada solamente in vacanza, e diciamo solo in età adulta mi sono reso conto di, diciamo, di quanto il costume sia permeato da questa, non so più come chiamare, insomma, da questa moda, perché poi è una moda. Ma diciamo è una deriva dell'umanità, noi la osserviamo, non prendiamo posizioni di giudizio, semplicemente ce ne rendiamo conto. Ma in Colombia, scusi, per quel poco mi sembra di ricordare, esiste un modello fisico prorompente molto, che è quello della pupa del narcotrafficante, che deve necessariamente essere fatta in certe maniere. Il motivo che adducono i sociologi a questa deriva, come ce l'hai, è proprio questo, che siccome la donna del narcotrafficante è così, che siano vere o finte le tette, comunque è così, il modello diciamo, del narcotrafficante è vincente, perché può avere quello che vuole, e quindi diciamo, di conseguenza anche, diciamo, strati della popolazione che si poteva dire potevano esimersi dal seguire quel modello ci sono cascati, quant'è vero che c'è un episodio che io ricordo più, come dire, come macroscopico di questo fatto, è che parlando con due persone che erano come me, non so, io adesso sono architetto, ma comunque dei professionisti, gente che uno non sospetterebbe mai facessero certi discorsi, mi disse: beh, noi adesso stiamo mettendo i soldi da parte perché non sappiamo se comprare prima il frigorifero o prima il seno per lei, insomma, erano una coppia di sposi, di giovani sposi, quindi nei loro sogni di felicità coniugale c'è, cioè quello di farsi le tette nuove, quindi di mettere in mezzo nel loro rapporto fisico anche qualcosa di artificiale, che però, ripeto, nella semplice osservazione che facciamo noi e non entriamo in merito, comincia a far parte degli oggetti del desiderio. Ma questo era stato ampiamente anticipato e profetizzato. Ecco qua, riprendiamo la trasmissione, c'è stato un piccolo problema tecnico, non è che la sigla ci ha seguito, le macchine sono bloccate, ma l'importante è che noi riusciamo a parlare con Cristina Silvieri Tagliabue, che è qui accanto a me, che è autrice del libro Appena 18 anni mi rifaccio, storia di figli, genitori, plastiche, edito da Bompiani, e stiamo mettendo a punto, anzi toccando con mano, quello che sembra un problema piuttosto nascosto, ammesso che sia un problema, non è detto debba essere un problema, nell'ambito delle famiglie medie italiane, che a un certo punto le giovani adolescenti, dopo aver chiesto il motorino, dopo aver chiesto probabilmente la vacanza, dopo aver chiesto abiti, gioielli, gadget vari, cominciano a chiedere parti del loro corpo nuove da rifare completamente. Cristina mi diceva che in realtà questa situazione è molto diffusa, più diffusa di quello che sembra, risponde a un'esigenza ben precisa, quella di una riprogettazione del proprio corpo secondo modelli che non appartengono naturalmente al progetto della natura. Ma vale ancora la pena di parlare di un progetto della natura? 800 24 00 24, ve l'hanno già chiesto le vostre figlie, vi risulta che lo chiedano le figlie dei vostri amici, quale è l'atteggiamento che voi terreste di fronte a richieste ben precise: mamma, voglio rifarmi i glutei, voglio rifarmi il naso, la bocca. Ma non soltanto, vero Cristina? Si arriva anche ai piedi, ho visto delle cose terrificanti. Sì, in realtà ci sono i feticisti dei piedi che spendono tantissimo, perché sono delle plastiche anche molto complesse, proprio chirurgia di fino, in cui per rifarsi i piedi bisogna in realtà spaccare ad uno le singole dita dei piedi e poi ricostruirla. Come facevano le mamme cinesi, esatto, fino a un secolo fa, ma nemmeno fino a 50 anni fa. Esatto, è una pratica mortificante che implica il fatto che tu non possa camminare per un paio di mesi. Ciò nonostante, chi ha la fissa, donne come uomini, in realtà spendono decine di migliaia di euro e vanno in clinica. Mi spieghi come viene il piede rifatto? Guarda, onestamente, delle tante cose di cui posso farmi un'idea, ma la differenza tra un piede rifatto e un piede normale. Capisco un alluce valgo, una vecchia con la patata sull'alluce, ma una ragazzina cosa può fare al proprio piede? Beh, sai, ci sono comunque, io almeno ho visto, ho guardato, ho imparato anch'io, perché in realtà non avevo neanche questa cosa per la pellicola, per la cura del piede particolare. Ma quello fai schifo, però. No, scusami, io mi lavo, però vorrei sottolineare. Però in realtà ci sono dei piedi grossi, oppure dei piedi grassi, oppure dei piedi in cui ci sono proprio le dita storte, tipo il mignolo, no? Che va, sì, verso l'esterno. Allora, d'estate, quando hai una scarpa aperta, sta male, no? Non sta bene. Oppure, come dire, quando hai il dito troppo grosso, oppure un'unghia, come dire, vaga che ti entra all'interno della, cioè, sono tutte cose, tutte imperfezioni che, come dire, se ti fissi, no, su un singolo particolare del tuo corpo, è chiaro che non sarà mai perfetto. Ciononostante, c'è un accanimento, no, che diventa sul particolare, che diventa sempre più forte, più importante, visto che il corpo è vissuto dalle ragazzine come un nuovo capitale, no? Il loro vero capitale, perché poi nella giovinezza, come dire, queste ragazze in realtà hanno il maggior potenziale, possono esprimere il maggior potenziale nei confronti del mondo. Ecco, lì allora, come dire, accade che lo specchio diventa un amico, no? Perché lo sai come usarlo il tuo corpo, e però diventa anche un enorme nemico, per cui c'è, cioè, il dettaglio che mi ha inquietato, però è così, il dettaglio per il dettaglio, le ore passate a fissarsi sull'operazione sui piedi, e poi la mamma che chiede la liquidazione per andare per fare i piedi, no? Alla figlia, e renderla felice. Senti, nel tuo libro c'è la storia di una certa Patti, che naturalmente penso che sia un nome di fantasia, che forse corrisponde a qualcosa di quello cui stiamo dicendo. Patti, 15 anni, ragioneria a Viterbo, ricostruzione dei piedi, 25.000 euro. Paola Barale c'ha i piedi perfetti. Sono piccoli, sottili, lisci. L'alluce mignone, le falangi tutte allineate, elegantissime, lo smalto glitterato. Ogni volta che siamo davanti alla TV e c'è lei a Buona Domenica, papà le guarda le gambe e poi i piedi. Lo so che le guarda i piedi, perché a papà i piedi piacciono tanto. Paola Barale c'ha i piedi perfetti e 1.000 euro di sandali alla schiava che le avvolgono le caviglie perfette. So anche che la mamma è gelosa ed è per quello che ha scarpe sempre nuove e bellissime. Ho accompagnato la mamma alla clinica per un consulto estetico, perché con i soldi che le hanno lasciato i nonni ha deciso di fare un regalo a papà e di operarsi ai piedi come la Barale. La dottoressa che l'ha vista, la mamma, le ha detto che Paola Barale in effetti è sua cliente e che in effetti le dita gliele ha solo raddrizzate, che erano storte. Per mettergliele a posto, prima ha dovuto rompergliele a una, poi metterle il gesso e poi ancora aggiustarle un poco perché non venivano dritte. Cristina, tu hai realmente parlato con questa ragazza, realmente sentire dire queste cose qua, che c'è una sorta di mitologia, di epica legata a un personaggio dello spettacolo, il cammino, il martirio quasi della presentatrice televisiva sembra quasi un cammino di perfezionamento da seguire, ma c'è una mistica in questo, sembra quasi. Sì, ovviamente ognuno ha un suo personaggio di riferimento, poi in realtà le ragazze non sono banali, nel senso hanno un riferimento per ogni cosa, no? Quindi per ogni piccolo dettaglio. Quindi Paola Barale notoriamente ha questi piedi bellissimi che ha dichiarato televisivamente di aver rifatto, e quindi è diventata per questa ragazza di Viterbo, che in effetti si chiama proprio Patti, cioè il suo nome è vero, e io davvero sono andata a incontrarla con la madre, grazie appunto a tutte queste donne che mi hanno aiutato ad entrare all'interno delle case. E sono i gioielli di famiglia a Piedi di Patti, quindi nella casa di Viterbo. Sì, in realtà è una famiglia anche abbastanza benestante, non sono famiglie che, come dire, no, rinunciano al mutuo della seconda casa pur di rifarsi i piedi. Però è vero che c'è comunque un'enorme, importantissima concentrazione su questo fatto. La mia figlia deve essere bella, la mia figlia la cosa principale che deve avere è la bellezza, non più la formazione, ed è questa la cosa che in realtà mi ha spaventato di più in queste famiglie normali, normalissime. Beh, però io un po' me lo spiego, sai Cristina, una figlia bella in realtà è anche un bel investimento. Oggi è chiaro che la bellezza nel mercato della televisione, del cinema, della stampa di genere è un grosso valore. Avere una figlia miss, una figlia presentatrice televisiva, una figlia che sta in questo mondo, si immagina che abbia un futuro anche da un punto di vista economico più consistente che magari una figlia aspirante avvocato, medico, ingegnere, via dicendo. Ci si arriva prima comunque, questo me lo spiego invece io. E allora perché le facciamo studiare queste ragazze, no? Ho sentito una madre appunto intervistandola per così questo libro, diceva, ma perché le facciamo studiare poi alla fine? Perché io me lo domando onestamente, io sono di quelle che è venuta su con l'idea che appunto un avvocato, fare l'avvocato fosse molto più interessante che fare qualsiasi lavoro in Star System. Quindi poi, quindi l'ho definito che scrivere poteva essere la cosa giusta per me. È stata una lunga maturazione perché in realtà nella borghesia milanese, diciamo, il mondo delle professioni, no? Cara Cristina, mi dispiace dirti, ti darò una brutta notizia. Appartiene ormai a un'altra generazione, il tempo che è passato. Oggi il mondo emergente, quello che tu hai colto nel tuo libro, si nutre di questo tipo di valori, quindi questo noi registriamo. Sentiamo Maria. Maria, buongiorno, da Bari. Buongiorno. Senti, io volevo sapere, che io ho fatto un intervento tumorale al seno e volevo sapere se si poteva... Guardi, questa domanda dovrebbe farla Nicoletta Carbone fra una mezz'oretta. Io di queste cose non so, noi parliamo di concetti estetici e vuol sapere se può rifarlo per questioni estetiche, si consulti con il suo chirurgo. Io volevo sapere se si poteva rifare. Signora, ma come, secondo lei alla radio come posso dirle io se può rifare il seno? Non essendo un medico in prima, mi fa molto piacere la fiducia che mi dà, ma oggi parliamo di ragazzine se le rifanno. Lei si è rifatto per una necessità di tipo clinico, le faccio i migliori auguri di avere comunque un seno meraviglioso, ma si affidi a chi di dovere. Magari chiami dopo la mia collega Nicoletta Carbone, che di queste cose fa il suo pane quotidiano. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io ho 44 anni, a 19 anni ho fatto una rinoplastica. Non vedo per quale motivo bisogna enfatizzare questo argomento. Che vuol dire enfatizzare, signora? Renderlo pubblico, parlarne? No, più che pubblico, proprio aggravare questa situazione. Parlandone perché... Non ho una velina, non ho mai fatto la velina, semplicemente mi sento meglio e mi sono sentita meglio facendo un'operazione al naso. Lei l'ha fatto qualche decennio fa, quando il fenomeno delle veline ancora non esisteva. Nessuno l'ha accusata di essere velina. Se lei vuole i suoi 5 minuti di celebrità, glieli do volentieri, parli pure della sua rinoplastica. Parliamo di un altro problema, non una matura signora che parla della sua antica rinoplastica, ma di ragazzine minorenni che si rifanno i piedi, che si rifanno parte del loro corpo per un puro non deprecabile e desiderio estetico. Non c'è nessun motivo funzionale, ma c'è semplicemente il bisogno di essere in linea con un modello estetico che corrisponde a qualcosa che non fa parte della loro struttura fisica, del loro patrimonio genetico, della storia della loro famiglia, di quello che la natura fa del suo corpo. Mi sembra un problema che non stiamo enfatizzando, ma stiamo semplicemente raccontando, anche perché raccontare è un po' il nostro dovere. 800240024, stiamo parlando di riprogettazione del corpo come è pratica popolare. Ci chiama Evan da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io volevo segnalare un fatto che è esattamente così, è un desiderio popolare, perché in Iran io posso segnalarvi che le ragazzine a spasso per le piazze di Ishan spesso si incontrano e si incrociano con i cerottini al naso, segno che si sono appena operate al naso, che è una pratica molto diffusa, proprio perché è l'unica parte del corpo che si vede in fondo. Che si vede, e quindi c'è un desiderio, secondo me, di comunicazione sociale, anche di status sociale, e questo di piacersi e piacere anche in quelle aree, diciamo, che potrebbero essere, secondo me, meno con meno riferimenti televisivi, per cui icone televisive da imitare. In realtà è un fenomeno piuttosto importante e presente anche in quelle aree. Beh, a me risulta che non ci si fermi al naso, magari delle altre cose c'è minore evidenza. Sì, il fatto che le donne vadano velate, vadano coperte e occultino il loro corpo, non è detto che poi non abbiano una cura meticolosa il loro corpo. Però ancora una volta ci muoviamo in fattispecie leggermente diverse. Sentiamo Ilaria da Roma. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno. Finalmente una madre con un figlio che vuole rifarsi. No, ci vuole un po' sistemare il naso, però in realtà non ha nulla di difettoso. Quello che volevo dire è questa attenzione al corpo. Noi forse nella nostra generazione cercavamo la felicità in un'altra maniera, anche nascondendo i nostri difetti fisici. Invece vedo che i nostri figli vogliono vivere in maniera diversa il proprio corpo e anche quindi una ricerca diversa della felicità. Quindi non più sull'aspetto interiore, ma solo sull'aspetto esteriore. Ma guardi, volevo io non ho nulla contro l'esteriorità, la trovo parimenti degna di attenzione, di valore e fonte di piacere quanto l'interiorità. Sono fortemente contrario allo stereotipo del bello dentro. Il bello dentro spesso è anche molto infelice. Però lei mi dia un attimo attenzione, visto che avendo un figlio di 17 anni siamo vicini generazionalmente. Lei non trova in questa ossessione della mutazione artificiale del proprio corpo una scarsa capacità di apprezzare il corpo da parte di chi dovrebbe invece gratificarlo? Queste ragazzine che si rifanno i piedi spezzandosi le ossa delle dita. Viene a pensare che non hanno vicino uomini capaci di farle sentir belle e di dare a loro la piacevolezza di avere un corpo comunque ce l'hanno. Senz'altro, sì, la penso anch'io così. Io personalmente ho i piedi difettosi, quindi ho la luce valgo a tutti e due. E ho trovato un uomo che mi ama per quella che sono, anche con questo difetto. Sì, che poi la luce valgo è un difetto facilmente risolvibile, ma rientriamo già nelle problematiche che magari ci si cammina male, può dar dei fastidi, è un altro problema. Qua si parla di ragazzine di 17 anni che guardano i piedi di Paola Baralli con li voglio come i suoi. Cristina Silvieri Tagliabue è l'autrice del libro Appena ho 18 anni mi rifaccio, storie di figli, genitori e plastiche, buon piani. Cristina, su quello che ho detto appena io, una scarsa capacità da parte degli amichetti, delle amichette, dei partner o del sistema generale di trovare piacevolezza, desiderio e caratteristiche estetiche interessanti nel corpo così come è fatto. La responsabilità è dei genitori, non possiamo dare comunque a nessun altro la responsabilità, delle madri quanto dei padri, dopodiché non è una questione le ragazzine hanno dei modelli, gli uomini, oddio, le sperimentazioni sul corpo delle donne. Cioè, io ero affascinata da Qureshi, no? Questo autore che ha scritto Il Corpo, questo racconto fantastico sul fatto di vivere eternamente, no? Con questo fisico che mai ti abbandonava. Qui la responsabilità è davvero, no, di madri che devono passare del tempo, no, con i loro ragazzi, cioè che devono parlare, che devono dialogare. Io ho parlato con tantissime ragazze che ho scoperto proprio avere dei problemi di comunicazione all'interno della famiglia. Ma con chi parlano questi ragazzi? Beh, il corpo diventa sempre una mappa comune in cui i problemi spesso si tentano di risolvere. Ma volevo fare un ulteriore finale salto rispetto al problema di cui stiamo parlando, un salto che a me è molto caro. Teresa Macri, buongiorno. Buongiorno. Teresa Macri è una critica d'arte, saggista, il suo ultimo libro è In the Mood for Show, edito da Meltemi, ma la chiamo in causa in quanto osservatrice molto del corpo post-organico, che è un testo che ha scritto, mi sembra del 2006, di Costa e Nolan. Sì, sì, sì, ecco, sì, Maria sì, Teresa Macri. Ne abbiamo già parlato abbondantemente, si ricorda? Sì, sì, sì. Vorrei una sua riflessione finale. Lei ha osservato con attenzione alcune punte d'avanguardia artistica, soprattutto nel settore della body art, che ponevano la riprogettazione del corpo come elemento essenziale di un'espressione artistica. Non trova oggi che la media borghesia italiana stia seguendo lo stesso percorso aperto, non so, da Orlando, da Stelarc, da una serie di artisti che in maniera coerente intervenivano sul proprio corpo? No, nel senso che... anche il mio ultimo libro in qualche modo è legato a questa problematica, nel senso che quello che io rilevo io è che all'interno degli anni, della fine degli anni 90, quando gli artisti utilizzavano il corpo e la tecnologia per potenziare un desiderio in maniera, se vogliamo, deleziano, no? Cioè cambiare il corpo per uscire dallo stereotipo, no? Invece trovo che oggi, seguendo tutto il discorso che avete fatto prima, invece c'è una sorta, c'è il contrario, avviene il contrario, perché secondo me il problema è la spettacolarizzazione del corpo e soprattutto l'uniformarsi di uno stereotipo, no? La clonazione, ed anche perché il corpo, le manipolazioni attraverso la chirurgia plastica in realtà servono come una sorta di contrattazione, no? Il corpo... Comunque si è smitizzato un principio, sembrava assoluto, che il corpo è intangibile, il corpo diventa un qualsiasi oggetto su cui si può intervenire tranquillamente, questo almeno è passato. Sì, questo assolutamente è passato, il corpo non è assolutamente intangibile. Quello che vedo io e che il corpo è sempre usato dalle nuove generazioni, del discorso che facevate prima, e per come dire, verificare un desiderio. Non so quanto questo dia la felicità, avere un naso, appunto, di farsi il naso, di farsi tutto quello che pare piace, secondo me non è poi un'assunzione di felicità, non forse di pacificazione con il proprio sé che vuole appunto uniformarsi. Basta vedere sulle pagine di Facebook il tipo di scambio che c'è, che è uno scambio simbolico, no? Le sono delle fotografie di se stessi sempre più equiparate alle immagini degli idoli del momento che circolano su internet o sui media di comunicazione. Ecco, Cristina Tagliabue, proprio in conclusione, se non dà felicità, perché c'è questo perseguire un modello di omologazione? Dice giustamente Teresa Macri, queste in realtà vogliono essere serializzate, non cercano un'esclusività. Ma Gianluca, niente da felicità a questo mondo, cioè alla fine il corpo, come dire, è un consumo, soddisfiamo una necessità che è una delle tante necessità, come quelle di acquistare un vestito di lusso, come acquistare una bellissima macchina, una bellissima casa, eccetera eccetera, ce ne freggiamo, ci facciamo belli e poi comunque dura pochissimo la soddisfazione. No? Dura pochissimo, giusto il tempo, come dire, di mostrarla, di autocompiacerci e poi si passa al prossimo desiderio. Ma si entra in una catena inestinguibile, si comincia dai piedi, non si finisce più. Poi dipende ovviamente a che livello è, come dire, l'equilibrio e la malattia. Sulle ragazzine c'è questo pericolo, come c'è il pericolo di tante malattie legate alla psiche, però anche per gli adulti io credo che proprio sia una questione di consumo e di ricerca della felicità, e la felicità magari. Allora, Cristina Silvieri Tagliabue, fra qualche giorno in libreria il suo libro sui rifacimenti delle ragazze di 18 anni, guardatevi intorno e cominciate a rispondere in maniera, se potete, diversa alle richieste di rifacimento pressanti che vi faranno i vostri ragazzi. A domani da Torino. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.